ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Come un flash, ecco. Un flash, ho visto la mia vita deviata e completamente rovinata in vari modi e in varie situazioni differenti. Perché io, avendo percorso quel tratto centinaia di volte, ho solo una vaga memoria di quello che è accaduto quella sera. La risposta è semplice: quella è stata la mia prima Thin Red Line. Storia di salvataggi e di un incontro con un'icona. Benvenuti a Linee d'Ombra. Lei ha un figlio maschio? Sì, signore. Bene. Noi non vogliamo che i nostri figli o i nostri nipoti combattano ancora questa guerra fra 30 anni, vero? No, signore, assolutamente. Allora li schiacci senza pietà. Li stani da quelle colline e protegga quel campo d'aviazione. Sì, signore. Mi domando perché. Ma perché? Perché i giapponesi hanno piazzato un campo d'aviazione proprio lì. Forse non conosciamo il quadro al completo, va bene? Se ne esiste uno, lei che ne pensa? Beh, signore, non mi sono mai posto questa domanda. Lei è un uomo modesto. Colonnello, nessuno vuole quell'isola. Tranne lei. Quanto la desidera? Quanto sarà necessario, signore. Questo è un estratto di quel capolavoro colossale che è La sottile linea rossa. Tra pochissimo capirete il motivo per cui abbiamo deciso di aprire con un estratto di questo film, proprio a che fare con la prima storia che vi raccontiamo, e ha a che fare anche col senso di raccontare storie in questo programma. Prima giusto due cose sulla sottile linea rossa: se non l'avete visto, se non avete sentito parlare, è un film del secolo scorso, nel senso che è del 98, ed è un film di Terrence Malick. È un film di guerra, ma in realtà è un film, come gran parte dei film di Malick, che ha a che fare con il pensiero filosofico e molto con l'essere umano. La trama è piuttosto semplice: c'è questo gruppo di soldati che è in navigazione verso quest'isola del Pacifico che è Guadalcanal, un'isola del sud del Pacifico, di fatto appartiene alle isole Salomone, dove nel 42, durante la seconda guerra mondiale, i giapponesi avevano piazzato un campo d'aviazione, cioè un aeroporto sostanzialmente, un aeroporto militare, e loro avevano come obiettivo quello di distruggerla. La voce che avete sentito sono quelle di due tra alcuni delle star, degli attori assolutamente star di primissimo livello che hanno partecipato a questo film. Nella fattispecie sono Nick Nolte e John Travolta. John Travolta è il generale, Nick Nolte è quello che gli risponde e che ha la responsabilità di assaltare quest'isola. Ma davvero i nomi degli attori che si sono messi in fila per partecipare a questo film, addirittura la leggenda vuole che quando si è saputo che Terrence Malick sarebbe ritornato dopo anni al cinema, moltissimi attori hanno chiesto di poter fare un provino con lui, ma parliamo di gente tipo Johnny Depp, Nicolas Cage, DiCaprio, Brad Pitt o Kevin Costner, e alla fine lui ha scelto comunque questo film. Anche in parti piccole, però, in questo film hanno partecipato Sean Penn, appunto Nick Nolte, e poi John Travolta, Adrian Brody, John Cusack, Jared Leto, George Clooney. Insomma, è veramente un film colossale, è un film, ripeto, di guerra. È un film che è uscito nello stesso periodo di Salvate il soldato Ryan, ed era lampante la differenza tra un film e l'altro. Uno era proprio un film d'azione, uno era un film d'avventura, di guerra, l'altro, cioè questo, La sottile linea rossa, invece era un film che parlava e parla tuttora dell'essere umano. E noi l'abbiamo aperto con questo, prima perché faceva piacere raccontare la storia di questo film, e poi perché questo programma si chiama Linee d'Ombra e ha a che fare con i confini, anche questa storia, anche la storia di questo film, ed è il motivo per cui noi vi chiediamo storie di confine, perché quando c'è una linea che demarca un prima da un dopo, sempre lì c'è qualcosa di interessante che è accaduto, anche se ovviamente non è una battaglia a Guadalcanal, ma è è un evento piccolo o grandissimo della vostra vita o della vostra esistenza, noi vi chiediamo di inviarcelo a linedombra@radio24.it. Noi lo prendiamo, ci facciamo una puntata, proprio come è accaduta con la prima storia di oggi. Oggi abbiamo delle storie molto diverse tra di loro. La prima è quella di un incidente schivato all'ultimo minuto, ma molto più di un incidente in realtà. Non succede nulla, quindi non, se avete paura dei crash, non preoccupatevi, non succederà nulla di grave, ma ci si andrà molto vicino. E la seconda storia invece è quella appunto di un personaggio clamoroso della storia di questo pianeta, e di una persona normale che per una casualità si ritrova a incrociare l'esistenza e a dover fare davvero quello che si definisce un pronto intervento, insomma un intervento all'ultimissimo momento, motivo per cui si intitola Intervento Rapido la puntata di oggi. Insomma, mettetevi comodi, noi cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linea d'Ombra. Il test dell'alce serve ad evitare un ostacolo improvviso posto sulla carreggiata in direzione di marcia, atto a verificare la tenuta di strada del mezzo testato. Il nome del test svela la sua origine svedese, ma quanti di noi lo eseguono quotidianamente per evitare piccoli animali spauriti o molte altre problematiche che la guida impone in mezzo ad una strada quando si è sulla propria autovettura? Bene, penso fosse, se la memoria non mi inganna, il lontano 2005. Io e la mia fidanzata, in una tranquilla serata di sabato, avevamo deciso di andare al cinema, quindi, dopo esserci felicemente preparati, partimmo alla volta del multisala. Durante il viaggio, in totale serenità, discutevamo a proposito del film da scegliere, che per entrambi doveva avere contenuti poco impegnativi per alleviare le pene del nostro lavoro alquanto stressante. All'epoca facevo il lavoro che sto facendo adesso, cioè l'incastonatore di pietre preziose, e la mia ragazza era dirigeva un'azienda di caschi, e ci stavamo recando a vedere un film per alleggerire la settimana che era stata molto stressante, un film leggero, un cinepanettone. Guidando la mia auto, una 4x4 all'epoca, giunti in un lungo rettilineo, abbiamo notato un'auto nella corsia opposta che, sopraggiungendo ad alta velocità, ci diede il classico colpo di abbaglianti. La prima cosa che pensai fu quella di abbassare i miei abbaglianti, ma in contemporanea, prudentemente, abbassai anche la velocità. La domanda ora è lecita: perché io, avendo percorso quel tratto centinaia di volte, ho solo una vaga memoria di quello che ho fatto quella sera? La risposta è semplice: quella sera è stata la mia prima Thin Red Line. I'm giving you a night call, tell you how I feel. I want to drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Pochi secondi, ve lo assicuro, pochi secondi e 10 km orari possono cambiare le sorti di parecchie vite. Pochi secondi, o se volete una manciata di metri, e il fascio dei miei fari inquadrano quello che mai mi sarei aspettato in una rilassante serata come quella. La ragazza era là, seduta, in attesa. seduta sull'asfalto della nostra corsia, guardando verso di noi, con le mani appoggiate un po' dietro la schiena e le gambe leggermente piegate in modo che le suole delle scarpe fossero aderenti al suolo nella loro intera lunghezza. Bellissima e giovane, capelli lunghi e corvini lungo le spalle, però nel posto sbagliato, al momento sbagliato, in mezzo alla strada. Quello che si chiede ad ognuno di noi è di essere pronti quando serve e fare sempre tutto il possibile per evitare il peggio. E io, quella sera, per la prima volta, ho dovuto esserlo. Ecco spiegata la mia premessa sul test dell'alce. Un colpo di sterzo improvviso, ma molto controllato perché in gioco c'erano parecchie vite. Nell'altra corsia, per fortuna, non transitava nessuno, così sono riuscito ad evitare per pochi centimetri l'impatto con quella giovane vita e nel contempo mantenere la traiettoria giusta per un rientro in corsia sufficientemente rapido da non dare fastidio ad alcuna auto che nel frattempo vedeva avvicinarsi. Naturalmente, mentre incredulo frenavo il più energicamente possibile, ho inondato di flash le auto che sopraggiungevano. Io e Donatella, la mia fidanzata, ci guardammo attoniti. Lei mi fa: non possiamo lasciare, perché lei è molto, diciamo, è molto umana, una ragazza fantastica. Mi ha detto: non possiamo lasciare una ragazza così in mezzo alla strada. Ho detto: certo, io adesso mi riprendo un attimo e torno indietro, perché è stata una vera e propria, diciamo, tempesta di emozioni. Mi sentivo come se avessi visto la vita mia distrutta in un attimo. Perché qui si trattava di anche distruggere non una vita di un'altra persona, la mia vita e anche forse quella della mia ragazza, perché io non so che impatto può avere un'automobile su una persona, e potevo perdere anche, diciamo, il controllo dell'autovettura e quindi uccidere anche noi. Fermata completamente la mia auto dopo una decina di metri, Donatella mi disse che era necessario chiamare i carabinieri. Io, ancora scosso, annuì. Vidi quindi una piazzola e, mentre la mia fidanzata chiamava le forze dell'ordine, feci inversione. Percorrendo la strada in direzione contraria e usando gli abbaglianti, notammo subito che la ragazza non era più seduta sulla carreggiata, ma camminava sul lato della strada, nel nostro senso di marcia. I carabinieri ci risposero immediatamente e spiegammo loro quello che era accaduto. Io nel frattempo, rendendomi molto visibile con le quattro frecce accese, mi affiancai a quella giovane che appariva in un totale stato di alienazione e intanto piangeva di rotto. Abbassai il finestrino fino a metà e, preso da qualcosa che non saprei descrivere e che non mi appartiene, senza ascoltare il consiglio degli agenti che dispensavano attenzione nei modi e nelle parole, le gridai: «Volevi morire e rendermi un assassino per tutta la vita!» Ritornato in me, vidi l'effetto che la mia frase suscitò: un susseguirsi di singhiozzi e un pianto ancora più dirompente. Da qui in poi i miei ricordi si fanno più vaghi. La mia fidanzata per qualche minuto cercò di comunicare con la ragazza, io intanto l'accompagnavo a bordo strada, a passo d'uomo, segnalandola agli altri autoveicoli, fino a quando un'auto sopraggiunse da dietro. Si fermò, la giovane la riconobbe e corse verso essa salendoci sopra. Chiesi se era il caso di seguire l'auto, ma i carabinieri, che erano ancora al telefono, ci risposero che avrebbero fatto loro le indagini del caso e quindi di andare a casa, tenendoci a disposizione per eventuali verifiche nei giorni a venire. Facciamo così. Non seppi mai cosa accadde veramente quella sera. Forse un litigio tra amanti, o forse qualcosa di peggio. Io ho solo questa certezza. Quella poteva essere la mia sliding door. When you mess with us. La puntata di oggi si intitola Intervento Rapido e probabilmente l'avete capito anche dalla storia di Fabio che cosa intendiamo per Intervento Rapido. Lui in realtà è stato molto lesto e ha risposto al suo istinto che gli ha detto, che ha comunicato direttamente con le sue mani sul volante, immagino, e gli hanno permesso di evitare quella ragazza. Però tutti noi sappiamo che cosa si prova, la scarica di adrenalina che arriva dopo una roba del genere, che sia una buca per strada, che sia un animale, figuriamoci se in mezzo alla strada c'è un essere umano. Pronto, ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Come stai Fabio? Molto bene, grazie. Era il 2005, 15 anni fa. Sì, 15 anni fa. Ma tu sì. Ti ricordi ancora la faccia di questa ragazza? Sì, sì, sì, sì, decisamente, una ragazza giovane, molto carina, anche io penso molto disperata. Ovviamente non abbiamo capito che cosa era, una questione d'amore, una questione Non lo so e spero che non sia la cosa più tragica, che non sia qualche cosa di più, ancora più di più grave. Più grave, esatto. Senti, tu a un certo punto parli di Thin Red Line, no? Della sottile linea rossa, motivo sì. Per cui io ho usato anche un è pezzo di quel film. Che mi piacciono di più, perfetto, esatto. Perfetto. Io ho usato un pezzettino di quel film proprio in apertura perché tu la citavi. E visto che noi ci chiamiamo Linee d'Ombra, abbiamo fatto proprio scopa mettendole insieme. Tu che cosa intendi? Cioè, quando parli di quella sottile linea, cioè parli di una sliding doors in sostanza. Esatto, da passare da un normale cittadino a essere un assassino, benché senza colpa, ma avere sulla coscienza una vita umana. È questo che io voglio intendere, e questo cambia molto le cose, secondo me, nella vita di un uomo. Eh beh, sì, decisamente sì, decisamente sì. Senti, tu sei la donna, la compagna che era in macchina con te, è ancora, diciamo, nella tua vita? Certo, certo, certo. Donatella, sì. Giusto? Donatella, sì, sì. Certo. Ne riparlate o ne avete riparlato quando ci ha mandato la storia? Lei se la ricorda bene la storia? Lei se la ricorda bene e mi dice sempre che è la peggiore serata della sua vita. Senti, che cosa fai tu nella vita, Fabio? Io faccio l'incastonatore di pietre preziose. Oh, ma è che meraviglia, sembra una roba di 200 anni fa, potresti essere uscito dall'Alto Medioevo. Adesso tutti quanti gli storici mi diranno che 200 anni fa non era Alto Medioevo, ma ci siamo capiti, a Valenza lavori quindi. Si potrebbe risalire anche a 5.000 anni fa, magari nell'antico Egizio, certo. Nell'antico stato Egizio, diciamo. Incastonavano già pietre, cioè, quindi tu esattamente, certo. Tipo, oggi la tua giornata in cosa consiste? In limare pietre e incastonarle? Dove? Scusami il mio scarso immaginario, però mi immagino. Allora, le pietre è meglio non limarle mai perché si potrebbero rovinare. Certo, incastonarle in una posizione, diciamo, negli oggetti per renderli più belli. Ma tipo ieri, oggi, cosa hai avuto sotto mano? Perché dove hai incastonato una pietra? Ho avuto sotto mano delle morganiti, che è una pietra, dicono la pietra dell'amore. Quelle rose. Ma quindi tu hai un lavoro di super minuzioso, parliamo di oggetti piccoli, molto piccoli. Sì, si parla di oggetti piccolissimi e anche si può avere qualcosa anche più grosso, tipo la punta di un pollice, queste pietre qua possono essere anche incastonate. Fabio, perdona per aver reso in maniera un po' prosaica il tuo lavoro, ma grazie per averci raccontato qualcosa di quello che fai e soprattutto per la storia. Grazie a voi per le puntate, per le cose che raccontate in radio, che sono bellissime. In bocca al lupo per tutto. E noi seguiamo. Grazie. Fa un saluto ai miei colleghi che facciamolo al volo. Sono sempre bravissimo. Bravissimo. Ciao Fabio, grazie ancora. Buona giornata. A presto. Ciao. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. La puntata di oggi si intitola Intervento Rapido e dopo la storia di Fabio, che un intervento rapido effettivamente l'ha messo in pratica, ora ci ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare un'altra storia di un intervento altrettanto rapido che ha a che fare con un personaggio che nel bene e nel male ha rappresentato una figura di riferimento nella storia religiosa e sicuramente in qualche modo anche popolare di questo pianeta, Madre Teresa di Calcutta. Tra pochissimo. Linee d'ombra. Fino a quando il telefono non squillò nel suo appartamento dell'Upper East Side di Manhattan nel pomeriggio del 9 settembre 1989, non c'era stato niente di speciale nella vita del dottor George Lombardi. A 33 anni aveva sviluppato una rispettabile pratica medica specializzata in malattie tropicali e, come tanti suoi coetanei, negli anni 70 si era impegnato in cause buone, aveva rifiutato una borsa di studio a Princeton e aveva trascorso i suoi anni universitari al City College di New York, principalmente per dare una mano nel ghetto di Harlem che circondava il campus. Nell'84 visse per 7 mesi nel Kenya orientale, facendo alcune ricerche chiave che portarono a un trattamento efficace di una malattia che all'epoca affliggeva l'80% dei nativi di quella regione. Ma arrivò la fine degli anni 80 e Lombardi aveva in gran parte rinunciato alle nozioni idealistiche di cambiare il mondo. Forse il mondo non voleva davvero cambiare, pensò. Presto si abituò ad una vita relativamente anonima, dedicata ai suoi pazienti, a sua moglie, ai suoi 2 figli e ad un futuro con poche sorprese. Ma il 9 settembre del 1989 gli arrivò quella telefonata. In questa puntata che si intitola Intervento Rapido, la seconda storia di oggi è quella del dottor George Lombardi. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Era un sabato pomeriggio ed ero da solo a casa. Stavo disfando scatoloni del mio trasloco quando suonò al telefono e una donna che non conoscevo cominciò a farmi domande. «È lei il dottor Lombardi?» mi disse, «lo specialista in malattie infettive che ha fatto ricerche in Africa orientale? Quello che è unanimemente considerato un esperto in febbri virali?» Ci è voluto un bel po' prima che potessi a mia volta fare la domanda che mi premeva più di tutte, e cioè «scusi, ma lei chi è?» La voce mi rispose che parlava a nome di una figura di caratura mondiale, un premio Nobel, quasi sicuramente affetta da una forma di febbre emorragica virale e che mi stava contattando per avere un consulto. Io ho trovato la risposta piuttosto improbabile. Avevo 33 anni, avevo appena aperto il mio studio, avevo pochi pazienti, ma la voce insisteva. Mi disse che aveva avuto il mio numero da un mio collega che aveva caldeggiato il mio nome, dicendo che ero uno dei massimi esperti in questo genere di infezioni. 10 minuti dopo, ero in conference call con un piccolo ospedale di Calcutta, in India. Solo a quel punto scoprii che la paziente era Madre Teresa. Parlai al telefono con 2 medici indiani, discutemmo sui dettagli del caso per circa un'ora. Era stata ricoverata in un ospedale di Calcutta con febbre altissima, nausea e vomito di sangue, e non erano riusciti a identificare l'infezione. Il quadro clinico era piuttosto preoccupante, ma continuava ad essere nebuloso per me. Più facevo domande e meno risposte ottenevo. Non ci volle molto per capire che i 2 medici erano diffidenti di quel collega americano sconosciuto. Conclusi la telefonata educatamente e mi rimisi a disfare gli scatoloni. Ma dopo un'altra ora, la prima voce mi richiamò. Siamo rimasti molto colpiti dalla sua competenza e vorremmo che visitasse di persona Madre Teresa. Sto già preparando il suo soggiorno a Calcutta. Posso farla partire domani, nel tardo pomeriggio con un Concorde. È impossibile, risposi. Sono nel mezzo di un trasloco e il mio passaporto è seppellito in uno dei tanti scatoloni. Ci vorrebbe una settimana solo per trovarlo. Dall'altra parte del telefono la voce sospirò: questo è un dettaglio. Vediamoci davanti al suo palazzo domattina alle 7. So 7 o'clock the next morning, she comes careening down the block in a wood-paneled station wagon with bad shock absorbers. I jump in. The next stop's the passport office at Rockefeller Center, where on a Sunday morning a State Department official came, let us in, took my picture, and handed me in 15 minutes a brand new passport. Il mattino dopo, alle 7 in punto, sotto il mio palazzo, trovai un enorme station wagon dai vetri oscurati che mi portò direttamente al Rockefeller Center, al Dipartimento di Stato, dove, sebbene fosse domenica mattina, in 15 minuti mi consegnarono un passaporto nuovo di zecca. Poco dopo eravamo al consolato indiano, dove l'intero staff mi aspettava come ospite d'onore. Poco dopo ebbi il visto timbrato sul passaporto. Prima di venire via, tutti si chinarono verso di me e mi dissero buona fortuna, gli occhi del mondo sono puntati su di te. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This fight is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Ovviamente già sapevo bene chi fosse Madre Teresa di Calcutta, ma dopo la consegna del passaporto e l'accoglienza avuta al consolato dell'India, per la prima volta realizzai chi fosse realmente e che cosa significasse non solo per gli indiani, ma per il mondo intero. Tornai sull'auto e chiesi: «E adesso quale sarà il prossimo passo?» «Siamo in anticipo sul volo», mi dissero. «Ti riportiamo a casa e alle 11 torniamo a prenderti». Alle 11 puntuali fu di ritorno, ma questa volta non era sola. Sul sedile posteriore della macchina erano incastrate 5 sorelle di carità, 5 suore, appollaiate una sull'altra. Durante il viaggio verso l'aeroporto mi allungarono lettere e piccoli pacchettini avvolti in tele leggere e legati con dei fili sottili, dicendomi: «Se vedrai sorella Narita e sorella Rafael, per piacere, da loro questi pacchetti da parte nostra». Mi stavano usando come corriere. Ma una volta in aeroporto mi avvicinai a una di loro e sottovoce domandai: «Ma perché mi state accompagnando in aeroporto? Non credo sia soltanto per darmi i pacchettini. Non capisco sul serio perché siate venute qui con me». We barrel off to JFK and when we get there I ask sotto voce, why are the nuns here? They could have just given you these things. I don't understand why they had to come to the airport. And I was told. La giovane suora abbassò lo sguardo e disse: «Non sapevamo bene come dirtelo, ma il tuo volo sul Concorde non è ancora confermato, sei in lista d'attesa». Io spalancai gli occhi e lei aggiunse: «Noi sorelle siamo venute per fare su e giù lungo la coda dei passeggeri all'imbarco, per elemosinare che qualcuno ti ceda il posto». Io mi misi di lato, appena fuori dalla fine della fila, e mi godei lo spettacolo. Quella notte partì. Sono rimasto a Calcutta per 10 giorni e ho contribuito in parte a salvare la vita di Madre Teresa. Durante quei 10 giorni ho dovuto superare diversi ostacoli per fare al meglio il mio lavoro. Tutti non facevano che ripetermi: «Madre Teresa è un dio, è una santa». E più me lo dicevano e più io mi innervosivo. Si trattava comunque di una persona fragile, di 79 anni. Non volevo che riponessero in me così tanta fiducia. Ricordo che la prima cosa che Madre Teresa mi disse fu: «Dottor Lombardi, non lascerò Calcutta finché non starò bene e non voglio che ci siano divergenze di opinioni sulle mie cure tra lei e i medici indiani». Inevitabilmente però il disaccordo sorse, la stavano curando con antibiotici ma le sue condizioni continuavano a peggiorare. Conclusi presto che l'infezione proveniva da un catetere a filo che era stato inserito nel suo braccio sinistro e attaccato a un pacemaker cardiaco esterno. Il pacemaker era solo una precauzione, non era mai stato acceso. Tali infezioni non sono rare anche negli ospedali occidentali, ma i cardiologi di Madre Teresa avevano paura di rimuoverlo perché sarebbe stato vitale per la sua sopravvivenza se avesse avuto uno scompenso cardiaco. Ma dopo 5 giorni di resistenza il pacemaker venne rimosso. La febbre di Madre Teresa sparì rapidamente e 48 ore più tardi ero di nuovo in aeroporto. Stavolta a Calcutta, insieme ad altre 5 sorine che facevano su e giù lungo la coda del check-in. Oh, Mr. Madison, I'm so happy you came here. You went from every man to every man's savior. From the Arctic to Everest. doors will start to open. This cycle has now been broken. First job, you get up. There's a pile of dirty laundry. I know you clean it up. You're the man to do it for me. I trust your judgment. I like the things you say. It's common sense. Questa storia, la storia del dottor Lombardi, l'abbiamo ascoltata e l'abbiamo anche fatta sentire in parte dalla viva voce del dottor Lombardi in uno di questi episodi di The Moth, che è un format americano di racconti che nasceva in locali pubblici e poi è diventato un podcast e adesso è diventato anche una piccola serie video. Lo trovate su YouTube, The Moth, scritto col TH finale. The Moth significa falena. E l'inventore di The Moth sostiene che quando era giovane nella Virginia del Sud la sera si metteva intorno a una candela accesa con degli amici e si raccontavano storie, e intorno a quella candela girava sempre una falena, una moth, e quindi ha deciso di chiamare così il suo show. Noi ora continuiamo a raccontare, però prima vi facciamo ascoltare un po' di borse in diretta, anzi perdonatemi, prima vi facciamo ascoltare un po' di traffico e poi torniamo sempre qui a Linea d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova... Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Linea d'Ombra. Durante la scorsa settimana, all'interno della nostra storia seriale, Mauro Pescio ci ha fatto fare una sorta di detour, un giro, lasciando per un attimo da parte la storia di Antonio Cocco, ci ha fatto fare un viaggio all'interno della Legione Straniera. Lo abbiamo fatto grazie agli scritti, grazie alle lettere di altri legionari o ex legionari che erano arrivati nella Legione Straniera. E quindi l'abbiamo conosciuta un po' meglio. Oggi ritorniamo proprio addosso a Tony, addosso alle sue lettere, quelle che lui mandava a casa quasi quotidianamente in risposta a quelle che riceveva da casa, da parte del padre in particolar modo e dei fratelli. Lui scriveva a tutti, aveva 10 fratelli, era un ragazzino di 18 anni che viveva a Venezia e per una stupidaggine aveva deciso di scappare in Francia. Nella storia di oggi, nell'episodio di oggi che si intitola L'arruolamento di Tony, ecco, Tony spiega molto molto bene che cosa è accaduto a Modane. Modane è quel paesino di confine dove Tony arriva insieme al suo amico Paolo e si trova davanti a questo gendarme che gli dà due possibilità, e sono due possibilità che sono chiaramente dove la libertà di scelta è veramente minima. Tra l'altro questo tema, il tema di come la gendarmeria trattava i giovani che arrivavano in Francia e che erano quindi clandestini, ripeto, siamo negli anni 50, siamo nel 1952, non c'è ancora Schengen, non si può andare dove si vuole. Ebbene, in quegli anni, anche a causa della storia di Antonio Cocco, di quello che succede ad Antonio Cocco, c'è un'interrogazione parlamentare, c'è una sollevazione di parte dei parlamentari italiani perché il governo francese gestisca meglio quello che accade al confine, quando un gendarme qualunque può dire a un giovane uomo: o ti arruoli nella legione straniera oppure vai in carcere. Chi lo sa, probabilmente non era nemmeno la verità, però nella storia che Tony ci racconta nella puntata di oggi dice esattamente così. Lasciamo le parole a lui, alla sua voce, alla sua penna, alla sua lettera, e poi al fratello Gianni. Saida, 19 luglio 1952. Caro papà, approfitto della domenica per scriverti due righe, perché neanche oggi ci è andato la libera uscita come speravamo. La vita qui mi riesce sempre più insopportabile. Anche questa notte ho dormito sì o no 2 o 3 ore, perché sono stato quasi sempre tormentato dall'asma. Non dormire alla notte e al giorno lavorare come ti fanno lavorare qua non è una cosa ideale per uno come me, che di calli sulle mani non ne ha. Da quanto ho capito, lui non gli piaceva studiare, lui voleva andare a lavorare, e mio padre che insisteva perché arrivasse a casa perlomeno con il suo diploma di ragioneria in qualche modo, ecco, e lui lo faceva, sì per carità, studiava eccetera, ma non, lui voleva andare a lavorare, insomma. Probabilmente se si riusciva ad avere questo pezzo di carta sarebbe andato meglio anche lui nella vita dopo, però lo faceva con grande fatica, non interessava niente, insomma, sostanzialmente non gli piaceva. Antonio aveva l'ansia, la scuola gli stava un po' stretta, non era convinto, voleva finire la scuola, arrivare in fondo alla scuola, aveva l'ansia di arrivare in fondo per andare a lavorare, tant'è vero che il padre l'aveva convinto a fare ancora quell'anno, da mettersi a studiare seriamente, a preparare anche l'ultima interrogazione in italiano, che sarebbe stata decisiva per certi versi, perlomeno per evitare di passare una brutta estate, dicendogli: guarda, se la passi quest'anno ti faccio fare, ti mando a lavorare quest'estate come ragioniere. Gli aveva trovato un posto come apprendista ragioniere. Tony studiava ragioneria, era il terzo anno. Quanto sono pentito del passo che ho fatto, e pensare che mi ha indotto a farlo il tenente di polizia a Modane. Infatti, appena fui preso, il tenente mi disse queste testuali parole: hai due vie, o ti iscrivi alla legione straniera e rimani in Francia, dicendomi inoltre che la vita non è poi tanto dura, o ti rimpatriamo e ti dovrai fare 2 o 3 mesi di carcere. Fece una bella pausa e poi aggiunse: e credi poi che tuo padre ti riaccetterà a casa? Comprendi bene che dinanzi a questo non avevo molto da scegliere e accettai la legione. Ma ora però vedo che non posso più farcela. Vedo che tutto quello che a Modane, Lione e Marsiglia m'avevano detto della legione, ebbene, naturalmente, è tutto falso. Un'altra ragione del perché venni sino a qui, a Saida. Molte volte, mentre l'asma mi tormenta alla notte, mi viene di farmi visitare per farmi scartare. Ma poi verso le 4 o 5 del mattino comincia a non darmi più fastidio. E quando sono alzato sto benissimo, e allora temo che se mi faccio visitare il medico mi trovi niente. Anzi, sono certo di questo, perché rammento che spesse volte a Venezia mi è successo lo stesso scherzo mentre mi facevo visitare il giorno dopo di qualche attacco asmatico che avevo avuto durante la notte. Per il momento non so cosa fare. Certo però che temo di durare ben poco a questo regime troppo duro e di sacrificio. Salutandoti, abbraccio te, mamma e fratelli. Tony. Bye. Grazie mille Mauro che raccoglie la storia di Antonio Cocco e ce la racconta così magistralmente. Grazie a tutta la famiglia Cocco che davvero ci permette di entrare nella vita privata di loro fratello e anche di fatto in quella di tutta la loro famiglia. Grazie a Danita Panizza, grazie a Luca Micheli, grazie a Paolo Corleone. Ora lasciamo la linea al GR, noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.